quando sono lontano e voglio ritornare qua. Perché non c'è da parlare, qua c'è da fare. Come mai came in fly, non mi posso fermare. E questa va per chi ci sta, per la mia città, al sole che cammina con me. Io scrivo per necessità, successi na, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare. Sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, sebbene che non mi posso fermare. Quindi cammina con me, con me. Mentre sta macchina va avanti, io vedo il sole fra gli alberi e si alterna con le ombre distanti. È come fossero sguardi e siamo sempre uguali, solo più distanti. Alcuni sono dentro, altri solo passanti. E se ci allontaniamo per riabbracciarci, continuo a camminare nonostante i fattacci e nonostante i fantasmi. Sento il sole e i suoi raggi, il resto conta poco e cammino da solo. E lascio la tua mano per sentirmi un uomo. Non so se volo, mi schiaccio, non so se rimpianto, ma vale la visione del mondo dall'alto. E quindi vago verso l'orizzonte, sorriso sulle labbra ed un bacio in fronte. E non è facile volersi bene, bisogna camminare non per forza insieme. E questa va per chi ci sta, per la mia città, al sole che cammina con me. Io scrivo per necessità, successi na, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare. Sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me. Ehi, ehi, la nostra musica cammina con noi, e camminerà sempre con noi. Voi che ci avete accompagnato in questo viaggio, in questi anni, camminate con noi. Tutti quelli che hanno lavorato con noi su questo. Spento il microfono. Eccoci qua, buonasera a tutti, questo è Jolly Roger, il viaggio di Jolly Roger inizia adesso, in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18 dal Brancaleone di Roma. Salutiamo appunto tutti gli amici e tutti gli amici che frequentano lo spazio, i vari collettivi delle scuole, varie realtà che animano lo spazio. E ricordo appunto questo weekend dinamico, il festival interessante, due giorni, cantine, vini che si possono assaggiare, tanti incontri, tutto rigorosamente anche trasmesso in diretta su Radio Sonar. E iniziamo questa puntata. La settimana scorsa, appunto, essendo la ricorrenza del 25 di novembre, giornata dedicata contro la violenza delle donne, abbiamo parlato appunto di quello che per Jolly Roger vuol dire violenza sulle donne e rifiuto appunto di qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Detto questo, abbiamo pensato di creare una nuova rubrica. Una volta al mese si pensava di raccontare quelle che sono sia le figure femminili che anche le figure maschili che più diciamo hanno influenzato la storia. Più avanti appunto parleremo di questo, ma intanto passo il microfono al mio amico Luca che è qui vicino a me, che parlerà appunto di alcune cose che sono capitate il weekend scorso. Buonasera a tutti, io sono Luca e vi racconterò di cosa è successo nello scorso weekend qui a Roma Capitale. Molti alberi sono caduti e ci sono, ecco, diciamo, rotti, poi allagazioni in... Allagazioni si dice arciops, qui arbacca si dice allagamento. Comunque, detto questo, sì, settimana scorsa ricordiamo un po' che sabato effettivamente è stato un fine settimana, qua a Roma almeno, che non è stato dei migliori, tantissimo vento appunto. Luca? Ecco, nel quartiere Monteverde, dall'altra parte di Roma, una ottantenne insomma passeggiava tranquillamente finché un albero cascò e la faceva morire, insomma. Ma mi spiace. Perfetto, quindi purtroppo questo succede anche, abbiamo sentito dalle cronache varie, che è una cosa che non succede solo a Roma, giusto Luchi? Sì, ecco. E secondo te da cosa dipende tutto, a parte il solito discorso anche un po' qualunquistico che si dice che siano cambiate le stagioni e che quindi il tempo è cambiato, però non è solo colpa del tempo, che il tempo è anche una conseguenza di quello che fa l'uomo, però è anche una questione di Ecco che gli alberi non vengono curati, non vengono, insomma, se gli alberi sono troppo vecchi, insomma, devono essere per forza abbattuti, non vengono abbattuti, non vengono curati. Non gli viene fatto nulla a questi alberi, insomma. Infatti io una volta quando stavo andando verso il Tigro ho visto degli operai che stavano rimuovendo degli alberi di ciliegino che erano troppo vecchi e l'erano rimorti dal marciapiede. Perfetto, quindi questa è una cosa che sinceramente, appunto, come diceva Luca, noi parliamo di quello che succede principalmente a Roma, ma che non vale solo ed esclusivamente per la capitale. È un segnale importante, insomma, che ci interessa anche perché va l'incolumità di qualsiasi persona si trova in giro. Detto questo, passiamo il primo pezzo che ha portato il nostro amico e poi ritorniamo con la nostra diretta, le nostre consuete rubriche. Intanto andiamo di play. Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela zik tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La, la. Alors on chante. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y en a encore. Ritorniamo in diretta. Si parlava appunto di questa nuova rubrica che ho spoilerato prima, quelle che sono secondo noi di Jolly Roger le figure. Oggi appunto parleremo di figure femminili che più ci hanno influenzato, che più ci interessano, che più insomma ci hanno colpito. E ora intanto Luca parlerà appunto di questa sua figura femminile che l'ha colpito. Samantha Cristoforetti, Moretti. la prima donna ad essere andata nello spazio. E io penso che

Ricordo a tutti, anzi ribadisco a tutti, che a noi il Conad non ci dà una lira, fino a mo' non ci ha dato manco una bottiglietta d'acqua, quindi questo è per far presente, insomma, che sembra che sono acquisti, consigli per gli acquisti, o meglio, a volte anche un po' di pubblicità, però non è così. Quindi proseguiamo con il momento delle battute, che già qualche anticipazione ce la date sul pulmino, io rido da solo perché appunto sentirete voi. Cosa dice un orologiaio cieco? Non vedo l'ora. Cosa fanno ad un vegano quando è impazzito? Lo sedano. Qual è il cereale preferito dei drogati? L'avena. Perché hai suonato e volevo vedere come faceva a casa delle scimmie? Perché come fa a casa delle scimmie? King Kong. Un genio, un genio. E noi andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo con la nostra amica Alice. Glamour, glamour, glamour, glamour. E se poi mi incroci, ma non mi saluti mai. Stiamo in piedi muti, qua, con quegli occhi vuoti, con lo sguardo fisso come in uno shooting. Sei il diavolo qui, in abito bianco e nero, Richard Avedon, è così. Quando ti vedo mi sento nuda, sola con il mio corpo, con un pitone sul collo. Rimane lì, una spina nel fianco, ti muovi su di me, mentre canto, ogni notte lo scintillio. Dimmi cosa ci faccio io, nel tuo mondo, glamour. Per uscire, prende il lusso d'un sorriso, sfila anche quando non cammina. Sogna Vogue, ma non è. Tu non sopravvivi senza, vado un party solo esclusivo. Vaffanculo con la V di Valentino. Rimani lì, una spina nel fianco, ti muovi su di me, mentre canto, ogni notte uno scintillio. Dimmi cosa ci faccio io, nel tuo mondo, glamour. Che ti detesto, sono piena di te, vittima fashion, o fashion carnefice. Odio la tua selezione all'ingresso. Non mi serve il tuo club, sembra stupido se poi ti nascondi da me, dietro una giacca Balmain. Rimani lì, una spina nel fianco, ti muovi su di me, mentre canto, ogni notte uno scintillio. Dimmi cosa ci faccio io, nel tuo mondo. Rimani lì, una spina nel fianco, ti muovi su di me, mentre canto, ogni notte uno scintillio. Dimmi cosa ci faccio io, nel tuo mondo, glamour. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, intanto dietro le quinte, come si dice, si cazzeggia. Ora ha parlato il nostro amico Luca, passo il microfono alla nostra amica Alice, che settimana scorsa ha festeggiato il suo compleanno. E oggi mi rifestiggeremo con il gruppo delle Jolly Roger. Esatto, quindi dopo festeggiamo, perché qui la festa continua. Quindi oggi è un festone. Festone, peccato, ho detto già dalla puntata scorsa che non ci sono le telecamere, non tanto per vedere quanto siamo belli, ma per vedere quello che facciamo mentre non siamo in diretta. Tanta roba. Ok, Ali, Iniziamo, di cosa vogliamo parlare? Tu di solito mediamente porti i tuoi consigli di bellezza, creme, cremine, Allora, lozioni e pozioni. io due scrub. Hai capito? Mica qui se fa le cose si fanno per davvero, mica per Aspetta, poi finta. ti dico tutto. Allora, lo yogurt e il limone, che praticamente sono, che ha un effetto purificante, che è inutile, che vuol dire che questo è una crema, che nutre molto. E mentre il limone disinfetta molto sul viso, come anche mi dice sempre Elena, perché il limone quando si mette sul viso si disinfetta sempre il viso Che perché. diciamo che il limone stringe, quindi se c'è anche altri problemi, oltre a dare nutrimento, a ristringe. A restringere i punti neri, restringe i punti neri, ma cioè, li richiude, li restringe, cioè nel senso li richiude Nel modo giusto. nel modo contrario, ma nel modo giusto, capito? Perfetto, senti, e poi quindi questa cremetta, quindi a chi la consigli? A uomini e donne o solo donne? Diciamo sono donne, perché è una cosa molto intima. Perfetto, è una cosa intima e femminile. Ok, poi andiamo con, che è, mi hai detto l'altra Perché si cremetta? usa, anzi, poi si usa, cioè, allora si usa, prima si mette cioè, lo yogurt e il limone, cioè, poi, sì, esatto, si mettono insieme per poi 15 minuti, Ah, fanno la combo yogurt e limone, giusto? sì, esatto, poi si lasciano proprio per 15 minuti, poi si mette il timer, si aspetta che il timer scade, Avvisa, quindi tu una volta che sono passati 15 minuti, che fai? Ti lavi? quando scade il tempo, uno si lava il viso e il viso rimane perfetto, alla bomba. Perfetto, perfetto. Quindi noi consigliamo a tutte le amiche, come ha detto Alice, di seguire questo suo consiglio. Poi, come che altro? Ah, poi di scrub, mi ha Scrub. nominato di scrub, che io ho scoperto da poco il significato di questa parola, prettamente femminile, ovviamente, e dici un po'. Allora, il bicarbonato e il limone si possono mettere insieme, perché il bicarbonato esfolia molto, Perfetto, quindi allora diciamo che perché questo si trattamento benessere è a base anche di limone. Prima abbiamo parlato della crema con limone, ora parliamo dello scrub al limone. Poi, cioè, spoglia nel senso, toglie le cellule e i batteri, perché sono dei batteri che noi mettiamo sulle mani e noi ci tocchiamo quando abbiamo le mani sporche e ci tocchiamo sul viso quando non ce le abbiamo lavate. Quindi, maleducati, lavatevi le mani. Esatto, può essere anche quello, però ci dobbiamo un po' educare un po' di più, le donne devono essere perfette. Perfetto. Allora, andiamo con un primo pezzo musicale scelto da Alice e poi ritorniamo sempre con la nostra amica e i suoi consigli di bellezza. Grande lì. Qualcosa che parla di me, le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme. mostrarti come sei, quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Il mio nome dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicino. La tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta al mare, ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. Tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Dimmi dove, dimmi come, che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. I sapori e gli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, ti amo davvero, e se questo ti piace rimani con me. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questo è Biagio Antonacci, Iris, un pezzo che ha portato la nostra amica Alice. Allora, si diceva, appunto, ora che non eravamo in diretta, vedendo con tanta bellezza, che forse anche per noi uomini ci sarebbero dei prodotti per aggiustarci un attimino, giusto lì? Giusto, sì. Ah, con questo si dice che siamo brutti proprio, che non si potevamo vedere. Quello è vero, però non lo facciamo in maniera così esplicita, nascondiamola, dai. Sì, siamo bruttarelli, dai. Diciamo che le cose a volte le nascondete un po'. Vabbè, meglio così, le nascondiamo bene, dai. Diciamo, ce la diciamo tra di noi. Eh sì, ma che ci frega di io un po'. Allora, che altro ci vuoi? A volte le cose le dico, tipo, per esempio, quando devo parlare con Martina ci parlo sempre. Anzi, ogni tanto quando me va, quando non me va, e quando me va io parlo. Vabbè, beh, è giusto. Io per esempio la mattina non parlo con nessuno, quindi è meglio se il sacrosanto silenzio mattiniero. Allora lì abbiamo parlato di sta cremetta, dello scrub, tutta a base di limone, qualche altra sostanza che rende la pelle, non lo so, di che vuoi parlare? Di scrub sempre, giusto? Sì, diciamo che gli scrub sono importanti perché nutrono e puliscono il viso, puliscono cioè massaggiano la pelle, lo puliscono e disinfettano anche e le bolle e anche i punti neri, ma non solo, soprattutto anche cioè, ci sono anche degli scrub fatti apposta che sono per le acne anche. Anche ci sono un problema che purtroppo noi adolescenti ne abbiamo tanti, però. Guarda a me quanta acne ne ho, è una marea di acne, però può capitare a tutti, capita ai migliori, giusto? Però questo capita alle donne, perché questo può capitare anche ai maschi, può capitare anche agli adulti, esatto, però può capitare anche normalmente, un mondo di acne.

momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Nel frattempo è arrivata anche la prof del nostro amico Matteo, che è qui alla mia destra. Allora, abbiamo iniziato la puntata parlando appunto di questa nuova rubrica che ci è venuta in mente un po' così casualmente, visto appunto si parlava già la settimana scorsa sul discorso del femminicidi, figure femminili e compagnia bella. Da questa settimana abbiamo deciso di raccontarci e raccontarvi quali sono le figure femminili che un po' più ci piacciono, ci colpiscono. Ecco, questo mese avremo questa rubrica. Il mese prossimo parleremo delle figure maschili e poi insomma alterneremo, visto che comunque la storia è ricca di figure sia maschili che femminili. Allora, intanto No, io parlo di Miloni. Perfetto, allora in base a quello che ci siamo detti, a Matteo colpisce tanto, piace tanto Giorgia Meloni, quello che abbiamo detto anche a Luca. Perché? Perché è molto viviata, perché parla bene, parla brava e tanto viviata. Allora, Matteo giustamente ha detto a Luca, gli è piaciuta la figura femminile di Samantha Cristoforetti, che è stata la prima figura femminile che ha sfatato tanti tabù che erano prettamente maschili. Quelli di andare sullo spazio, avere una figura femminile insomma che si ritrova ad aver visto lo spazio, per Luca ovviamente è una cosa importante. Matteo appunto parla di Giorgia Meloni, ovviamente, ma Giorgia Meloni chi è? Spiegalo tu chi è soprattutto. Vedete, di Cottiglio. Ah, ok, quindi diciamo che anche questa cosa è importante, giusto? Perché è la prima donna che è? Importantissima. E quindi è la prima presidentessa donna del Consiglio, giusto? Sì. Oddio, io sono ignorante, quindi non mi esprimo. Quindi, oltre a questo, Giorgia Meloni, tu mi hai detto prima, raccontando così, si parlava anche, ti piace perché? Perché parla bene. Sì, parla bene, però anche tu hai detto anche una cosa molto importante. Ti piace perché si sa vestire, giusto? Sì, vestire. E chi è il suo stilista? Tu sai chi la veste? Spera che si vesta da sola. Però chi la veste? Chi è il suo stilista? Giorgia Armani. Perfetto, quindi piccole scoperte piacevoli, insomma, quindi vabbè, per Matteo la figura femminile che più lo attrae è quella della Meloni, ci sta, non entriamo nei meriti politici perché appunto abbiamo detto che in Jolly Roger non si parla né di Roma né di Lazio né di politica. Detto questo andiamo con un pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta dal Brancaleone, questo è Jolly Roger. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do. Oh, I want something just like this. Do do do. I want something just you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parlava appunto di figure femminili che più hanno colpito, Matteo ha detto Giorgia Meloni, Luchino ha detto la Cristoforetti, ora tocca a me, la mia figura femminile preferita in questo periodo storico è Baby Mio, atleta paralimpionica, la stimo perché comunque nonostante le sue mille difficoltà e mille sofferenze non si è mai arresa, ha portato il tricolore alle Paralimpiadi, è una che ci ha messo anche il viso appunto nel discorso della violenza sulle donne, quindi la mia figura femminile preferita l'ho detta, quindi è andata anche per me. Ora appunto si parlava di sport, settimana scorsa Matteo ci raccontava di quella che doveva essere l'evento sportivo dell'anno e così è stato, ora ripasso il mic così ci racconta quello che ha praticamente visto nel weekend scorso. Ho visto la partita di tennis domenica scorsa, ha giocato Italia-Austria, Coppa di tennis. La Coppa Davis che dopo 47 anni, mica caramelle, torna finalmente in Italia. E 47 anni Italia ha vinto la Coppa di tennis e passa. Perfetto, perfetto, giusto Ciccio, bravo, è stato un ricco weekend quello passato di sport, Coppa Davis, Checco Bagnale che ha vinto il MotoGP, insomma si porta avanti ancora, si porta in alto la bandiera italiana. Detto questo c'è il nostro amico Davide, visto che appunto si parlava di figure femminili, vediamo anche lui la sua figura femminile preferita, cioè che più lo colpisce. Allora, buonasera a tutti, io ho scelto come figura femminile Rosa Parks, che nel 1955 è stata la prima persona a rifiutarsi di alzarsi per cedere il posto sull'autobus ad un uomo bianco. E così facendo iniziarono un anno di proteste e boicottarono anche i servizi, i mezzi pubblici. E diciamo questa legge razziale poi grazie a lei fu abolita. Perfetto Davide. Bellissima, vedi, molte cose di questa figura femminile, prima si parlava insomma che è stato fatto anche un film, ignoro l'esistenza del film, però insomma magari se c'è qualcun altro che è più informato ovviamente è bello saperlo. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta, ultimi minuti, ultime rubriche, soprattutto il nostro amico Matteo. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti di quella che è stato Jolly Roger, una puntata ricca di chiacchiere più che di musica, fortunatamente. E ripasso il mic al nostro amico Matteo che va con i suoi pronostici di calcio. Io ribadisco che qualsiasi persona abbia intenzione di giocare o deve fare prima cosa in maniera tranquilla e seria. Seconda cosa, se avanza qualche cosa, noi tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.30 siamo qui al Brancaleone, vi aspettiamo sperando in una ricca merenda, giusto Ciccio? Sì. E andiamo con i tuoi pronostici, vai! Io dico, da Juventus pite la Juve, e poi Milan Prodinà pite Proridone, poi Lecce Bologna pite Bologna, Torino Atalanta pite Torino. Perfetto, quindi noi ribadiamo il discorso, giocate, vincete e passate, soprattutto passate a trovarci. Come detto tante volte, Jolly Roger è un programma aperto, abbiamo la possibilità di aprire quella che è il nostro programma, chiunque voglia partecipare. Appunto oggi ci è venuto a trovare una prof di Matteo, e visto che appunto si parlava di figure femminili più importanti o che ci hanno colpito, ora passo il microfono anche perché la professoressa giustamente ci dirà la sua. Ora, oggi interroghiamo la prof, lo possiamo dire in diretta. Buonasera a tutti. Allora, io mi chiamo Roberta e sono la prof di Matteo e sono molto contenta, insegno scienze. Allora, non potevo non pensare a una importantissima scienziata che si chiama Marie Curie. È una scienziata che è stata la prima donna di insegnare a Parigi, la prima a vincere un Nobel per la fisica, quello per la chimica, insomma ha vinto due Nobel ed è la prima che è stata sepolta in un importante edificio di Parigi che è il Pantheon di Parigi. Perfetto, perfetto. Vedi, oggi tanta roba, tanta storia, abbiamo parlato Simona Cristoforetti, Giorgia Meloni, io ho parlato di Baby Mio, la prof appunto ha elencato adesso, anche Davide ha raccontato della prima figura femminile che più l'ha colpito. E ora Ciccio, due previsioni del tempo, vediamo che tempo farà questo weekend, giusto? Sì. Vai, dici un po'. È meglio fine settimana, domani piove, pomeriggio c'è il nuvolo, e domenica per la tutta la giornata. Tutta la giornata solo, il vento? No! Perfetto, vabbè, quindi vi potete abbronzare a casa, visto che il tempo sarà bruttissimo. Andiamo con un altro pezzo musicale, il penultimo per noi, poi ritorniamo per i consueti saluti e arrivederci e tante grazie. Intanto andiamo col penultimo pezzo che ha portato il nostro amico Davide. You've seen E ritorniamo in diretta. Questa è la fine puntata di Jolly Roger, è stata una piacevole puntata ricca di chiacchiere. E ora passo il mic, visto che siamo parecchi, per i saluti. Potete riascoltarci tramite podcast sul sito archive.org/pirateradio, dove trovate tutte le puntate di tutti i programmi di Pirate Radio. Potete sostenere e supportare, oltre che supportare, Jolly Roger sui vari canali social. Jolly Roger, la pagina ufficiale di Facebook, ora non ricordo quella di Instagram, però insomma siamo abbastanza social. Buon weekend a tutti e tutte, passo il mic per i saluti. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti! Ciao a tutti, sono contenta di... Cioè, sono contenta che ho detto tutto, e... tranne le cose che mi piacciono. Perfetto, grazie Alice. Diciamo, mo noi chiudiamo tutto qua e festeggiamo, giusto? Giusto, sì. Perfetto. Ciao a tutti, buon weekend e grazie per essere stati con noi. Al prossimo venerdì. Ciao. Delle strade e gli edifici, ti resta addosso tipo abbronzatura, sì. Ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa, con gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. La mia Nefertiti togli i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma. Ami i rischi perché possono ferirti, mamma. Ho lati appuntiti, mamma. Come sta la titi, mamma. E la gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei. Dove sei, dove sei? Come una vertigine lontana mi chiama. Sai che ne ho bisogno stasera. Fumo mentre sopporto l'attesa. Dove sei, dove sei? Calamità, un po' calamità. Siamo due gazzelle, siamo due levrieri. Tutti i miei trucchi, sei tu sottileggi. So che mi ameresti anche con zero umore. Baciami, respiro, getto i feromoni. Ti muovi Fellina, Selina, Nikita. Sai come tenere alta la sfida. L'amore per noi è fare una rapina e poi dividere la refruttiva, Nina. Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini, mamma. Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mamma. Amo i rischi perché possono ferirmi, mamma. Hai lati appuntiti, mamma. Come sta la titi, mamma. Gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei. Dove sei, dove sei? Come una vertigine lontana mi chiama. Crazy.